24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:19 minuti, buongiorno, siamo qui cari ascoltatori, i nostri numero per i vostri sms, ce la farò anche oggi, 349-238-6666, cosa ti ridi? Peter Bescapè ride perché lui domani è in vacanza, non si sa, quindi ironizza, per lui è venerdì, è finita la settimana di sveglie all'alba. E allora, di cosa parleremo oggi? Intanto avremo il leader, uno dei leader di questo movimento dei forconi che in Sicilia, ma ora pare si stia estendendo anche in Calabria, la protesta sta bloccando un po' tutto. Torneremo a parlare anche della vicenda della Concordia, ci sarà anche il sindaco di Meta di Sorrento con noi alle 8:30, un sindaco che rappresenta una comunità che ora si sta stringendo umanamente attorno al suo comandante Francesco Schettino, quel comandante che l'Italia, è un dato di fatto, ha già condannato in maniera impietosa. Ne parleremo più avanti alle 8:20, ora iniziamo dalla lettura dei quotidiani in edicola. 24 mattino. Eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8:21 minuti. Allora, il bello della diretta è questo: abbiamo chiamato il leader, uno dei leader del movimento dei forconi, addirittura, no? Questo emblema che viene utilizzato, i forconi. Quante volte viene evocato e viene utilizzato questo strumento per dire la casta, tornano i forconi. È nato un movimento dei forconi che sta da tre giorni paralizzando la Sicilia con autotrasportatori che bloccano tutto, la benzina che a Palermo, mi dicono, comincia a scarseggiare in qualche distributore, le merci nei supermarket che cominciano a scarseggiare. Li abbiamo chiamati e dovrebbero essere in diretta con noi, li abbiamo sentiti pochi minuti fa, il telefono adesso è occupato. Insomma, l'esordio, almeno per quanto riguarda Radio 24, di questo movimento dei forconi. Guardate che veniamo a prendervi coi forconi noi, se vi prendete un appuntamento e non riuscite neanche a rispettarlo al telefono in diretta, prendo un forcone io giù, vengo in Calabria, vengo, sbarco in Sicilia e ce la vediamo e ci fronteggiamo così, forcone contro forcone. Ecco, questo è il numero occupato. Poco fa ci hanno detto: stiamo aspettando la telefonata del Presidente della Repubblica. Ma non lo so, adesso non so se il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, forse alle 8:23 del mattino di una giornata del giovedì 19 gennaio magari sta attendendo qualcos'altro e non certo immagino fare una telefonata ai leader del movimento dei forconi. Che dobbiamo fare con questi forconi? Li seghiamo? Li abbattiamo? Li ospitiamo? Suona libero? Sono occupato? Siamo tutti in diretta, questo è bello. Vogliamo sentire? Non suonano? Vedo telefoni che si agitano di là. Pronto? Pronto? Chi è lei? Chi sono io? Chi è lei? Io sono Alessandro Milan di Radio 24, e lei? Io sono Francesco Crupi del Movimento dei Forconi. Francesco? Francesco Crupi. Ah, Francesco Crupi, buongiorno. Intanto la ringrazio perché, insomma, avevamo un appuntamento con Mariano Ferro, che lei conoscerà, no? Uno dei... Certo, siamo dei coordinatori del movimento. Siete i coordinatori. Tenete i telefoni liberi quando prendete un appuntamento, poi organizzate tutte le manifestazioni del caso. Allora, adesso abbiamo solo 3 minuti, ve ne avrei dedicati 7, ma purtroppo eravate occupati. A fare che cosa? A occupare la Sicilia? Bravo, l'hai indovinato. E perché? E perché un popolo è degno se difende la propria dignità e non farsi schiavizzare e non farsi rapinare dalle caste politiche e dai comitati d'affari. E questo è un principio sacrosanto, voglio dire, com'è il popolo a dignità se non si fa calpestare? Ma non si fa calpestare bloccando la Sicilia, facendo scarseggiare il carburante? Noi non abbiamo bloccato la Sicilia perché si cammina nella Sicilia, noi abbiamo bloccato chi vuole partecipare liberamente alla manifestazione che è una rivoluzione per noi, per il nostro popolo. Ma perché, cosa rivendicate voi? Mi dica in concreto cosa rivendicate. Ma insomma, noi intanto rivendichiamo il diritto ad esistere, nel senso che noi che vivevamo di agricoltura, e l'agricoltura siciliana la conosciamo tutta, mentre le politiche che hanno determinato la distruzione delle nostre campagne, i nostri terreni abbandonati, ci hanno impoveriti, indebitati, stanno mettendo all'asta i sacrifici di una vita con la serte, mettendole nel bilancio della nazione, e assistiamo nelle televisioni che ci dicono a una parte d'Italia che non ha pagato le tasse per costruirsi le loro industrie, mentre qua famiglie affamate che vanno alla Caritas per chiedere pasta, e suicidi di disoccupati per la vergogna di non poter mantenere una famiglia. Però le chiedo, Krupi, le chiedo, lo scenario certo è uno scenario che posso condividere. La forma della protesta, lei dice non abbiamo bloccato la Sicilia, si sono inventati i giornali che stanno scarseggiando i carburanti. Guardi, le merci nei supermarket che stanno girando in Europa con televisione nell'estero, che sono venuto sul posto a venire a vedere la realtà, non quello che dice un sistema che ovviamente è quello che si deve difendere di quello che ha commesso e che ha fatto. Noi vogliamo a questo punto non più la miseria o l'elemosina, ma vogliamo la nostra libertà, noi vogliamo la nostra dignità, noi vogliamo vivere del nostro lavoro. E il popolo siciliano, non qualcuno così, perché noi non abbiamo né sindacati e né politici. Questo è il popolo. Ma mi dica, lei scusi, mi dice ci hanno affamato, ma mi dica in concreto contro che cosa protestate? Le tasse? Troppe tasse alte? Il costo del carburante? Cioè ci hanno affamato è una cosa un po' vaga, mi dica su cosa. Quando noi parliamo che è la politica la nostra crisi, sì, quando praticamente si abbattono le frontiere così come hanno fatto, quando entra merce che non dovrebbe entrare se non in una certa percentuale, senza avere praticamente i controlli dovuti, perché c'è la permissività dello Stato che debbono esportare tecnologie, che debbono esportare industria, hanno distrutto la nostra agricoltura, perché noi non possiamo andare in concorrenza a nazioni che pagano 100 euro al mese con i nostri costi, che hanno messo fuori mercato. Noi seminiamo e non raccogliamo i costi stessi della semina. Quindi cosa volete, per esempio, cosa volete, un protezionismo, un ritorno al protezionismo? Non vogliamo un protezionismo, noi vogliamo a questo punto che noi abbiamo il diritto di vivere del nostro lavoro, e debbono creare le condizioni, non possono continuare a fare patti con le mazzette sui tavoli alle multinazionali che fanno un drenaggio del nostro denaro portandolo via, e qua non resta solo che miseria. Questa è politica, voluta da qualcuno. Sente, noi ci vogliamo confrontare, questo è il punto. La politica voi come la vedete? Perché vi hanno detto che ci sono movimenti autonomisti, qualcuno ha detto Forza Nuova. No, guardi, lascia stare Forza Nuova. No, chiedo a lei. Non esiste Forza Nuova, non esiste nessun partito politico. Perché il movimento dei perché il forcone come simbolo? Perché? Il forcone è proprio quel forcone che vedete nelle televisioni, è il forcone che risale al 1860. Cioè dire, la storia si ripete, che quando i popoli non ne potevano più, e come il popolo siciliano oggi esce fuori con il forcone in mano. E quindi voi volete utilizzare questo simbolo per dire non ne possiamo più. Ma la nostra rivoluzione, attenzione, è una rivoluzione democratica, civile e culturale. Senta, se avesse di fronte, e si calmi, Mario Monti, perché lui è sobrio, quindi sa la sua veemenza, magari la smonterebbe in due secondi con una battuta britannica. Sì. Che cosa direbbe a Mario Monti? Cosa chiederebbe? Direi quello che ho detto al presidente Napolitano, che venendo in Sicilia, ricordandoci che siamo una nazione autonoma, però una regione autonoma, sì, ma ancora incompiuta. Dopo 65 anni, lei si rende conto che sono loro che non hanno rispettato la Costituzione italiana, facendo questa autonomia parte integrante. Il suo è stato un lapsus freudiano, nazione è stato un lapsus freudiano, cioè vorrebbe l'autonomia. Ma è un po' di autonomismo, allora c'è, no? Voglia di autonomismo. Scusa, ma siamo una regione autonoma o no? Abbiamo il qualcuno dice che è per quello che pesate sulle casse dello Stato molto di più di una regione normale. Lasciateci liberi, ci lasciano liberi, se ne vanno, mettiamo qualche cosa magari a Messina se vogliono, e vedrete che noi aiuteremo i meno fortunati di questo mondo. Cioè Sicilia autonoma andrebbe molto meglio, lei dice. Certo. Va bene. Intanto la ringrazio. Glielo faccio io la domanda a lei. Lei crede che se questa autonomia l'avrebbe avuta la Lombardia, il quale spetterebbe la benzina defiscalizzata per legge? Perché quando noi tratteniamo inquinamento, leucemie, bambini deformati, che questa compensazione per il danno che poi non si può pagare sulla salute umana che provoca, se avrebbero fatto rispettare questi diritti, sì o no? Dice in Sicilia invece no, ma perché? Voi siete, vi sentite? Perché in Sicilia appunto parliamo delle rivoluzioni culturali, nessuno si è preoccupato di informare, di fare cultura, e il siciliano non può difendere un diritto che addirittura non conosce. Va bene, io intanto la ringrazio, andrete avanti nella protesta, vi seguiremo. Franco Cruppi. Io vi invito, per piacere, scendete e venite a vedere voi la realtà. Vabbè, ma abbiamo inviati, abbiamo persone che ci possono raccontare, non si preoccupi. Intanto la ringrazio, è uno dei leader del movimento dei Forconi. Avete sentito anche la passione con la quale rivendica la rivoluzione culturale? Andremo avanti. E allora di cosa parliamo tra poco, dopo pubblicità e meteo? Andremo a Meta di Sorrento per parlare invece di una comunità che si sta stringendo umanamente attorno al proprio comandante. Quando parlo di comandante parlo di Francesco Schettino. Sì, lui, colui che dice: non metterò mai più un piede su una nave. Tra poco. Pronto, sono Aisha, il designer. Il progetto lo sto ricopiando. Eh sì, a mano. 6 copie. Ma vediamo, poi glielo porto. Via fax! Ma no, passo io. Ti mancano gli strumenti giusti? Stampanti multifunzione Brother. Copiano, stampano, scansionano, inviano fax. Tutto in uno. Tu pensa al lavoro, noi facciamo tutto il resto. E se acquisti una stampante multifunzione Brother, ti regaliamo una macchina da caffè Nespresso. Regolamento su promobrother.it. Obblighi ministeriali assolti. Eagle Pictures presenta il film che ha trionfato al Festival di Toronto. Quando gli uomini perdono la testa, le donne trovano sempre una soluzione. Con un pizzico di hashish stramazzi un cammello. E ora dove andiamo? Dal 20 gennaio al cinema. Nella vita hai imparato a restare al tuo posto, essere all'altezza delle aspettative, contare sempre fino a 10, non deludere mai le speranze dei grandi. Ora che conosci tutte le regole, dimenticale. Nuova Mercedes-Benz Classe B, una rivoluzione in termini di design, una rivoluzione in termini di tecnologie. Osare diventa la regola. Provala sabato 21 e domenica 22 gennaio e scoprirai che tutto è cambiato. Molte banche oggi propongono solo tassi allettanti. Noi di UBS invece da sempre vogliamo aiutarvi a capire, offrirvi una consulenza mirata, capace di analizzare ogni opportunità e diversificare i vostri investimenti su scala globale. Noi di UBS siamo specializzati in questo. Siamo tra i maggiori gestori di patrimoni privati al mondo e finché non vi avremo dimostrato che su di noi potete contare davvero, non ci fermeremo. Cercate la vostra filiale UBS su ubs.com/italia. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona giornata agli ascoltatori di Radio 24. La giornata di oggi vedrà un aumento della nuvolosità su tutto il centro-nord, proprio per l'avvicinarsi di una nuova perturbazione, che poi domani farà sentire i suoi effetti, portando qualche nevicata sulle Alpi e un po' di pioggia sul versante tirrenico e le isole maggiori. Ma in compenso avremo un generale rialzo delle temperature, proprio perché si accompagna ad aria un po' più mite. La giornata di oggi vedrà ancora molta nebbia in pianura padana, solo in parziale dissolvimento nel pomeriggio. Sarà una giornata nuvolosa sulle Alpi, al nord-est e in Liguria. Le nuvole aumenteranno anche sul versante tirrenico. Qualche debole pioggia bagnerà Levante Ligure e l'Alta Toscana. Ci saranno delle deboli nevicate sulle Alpi orientali e in Valle d'Aosta più o meno a 1300-1500 metri. Prevalenza di bello nel resto del paese. Temperatura ovunque quasi in crescita dopo una mattinata molto fredda. Per maggiori dettagli consultate il sito meteo.it. E con questo è tutto. Gennaio 2012. Scendono in campo gli ecoincentivi Ford. Oltre 5.000 euro di vantaggio se acquisti la tua nuova Ford. Ford C-Max con clima, radio CD e cerchi in lega a 16.750 euro, anche sabato 21 e domenica 22. Ford, sponsor ufficiale della UEFA Champions League. Qui non facciamo trucchi, solo chi merita diventa Rosaria. Arancia Rosaria, povera di calorie, ricca di vitamine e sali minerali. E oggi anche in brick. Spremuta 100% di arancia rosaria, fresca tutto l'anno. Arancia Rosaria, la salute vien mangiando e bevendo. Papà, la casa di Giulia è una crepa nel muro. Il terreno potrebbe aver ceduto. Devono chiamare subito un tecnico. Già fatto, e il tecnico ha consigliato Uretek. Il leader mondiale nel consolidamento dei terreni con resine espandenti. Uretek, iniettando un'esclusiva resina nel terreno con una tecnologia brevettata, risolve definitivamente il problema di crepe e cedimenti. Sopralluogo e preventivi sono gratuiti. Basta chiamare l'800 32 39 99. Com'era lo spot? Con Uretek la casa campa? Senza Uretek la casa crepa. Forse sogni di diventare un direttore d'orchestra o un regista, o forse sogni solo di poter suonare la musica che hai in testa e di raccontare una favola come la vedi tu. Qualunque siano i tuoi sogni, Alitalia ti avvicina con delle offerte speciali che ti aiutano a realizzarli. Acquista entro il 30 gennaio e vola in Italia, in Europa e nel mondo. Ad esempio Roma-Bruxelles da 89 euro e Roma-Pechino da 399 euro. Prezzi andata e ritorno tutto incluso. Scopri tutte le offerte e i dettagli e acquista su alitalia.com. 24 mattino. Sono le 8:37 minuti. Eccoci qua, cari ascoltatori. Il numero per i vostri sms è il 349-238-6666. Ne sono arrivati tantissimi sul movimento dei forconi. Il numero per le vostre telefonate è 800-24-0024. Non metterò mai più il piede su una nave. Così, in brandelli di voci, di frasi, spizzichi di frasi che sono pubblicate dai giornali, avrebbe detto Francesco Schettino, comandante degli arresti domiciliari a Meta di Sorrento. Avrebbe anche detto a chi l'ha incontrato: sono un uomo finito. Ma insomma, io voglio salutare il sindaco di Meta di Sorrento, Paolo Trapani. Dottor Trapani, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, tra l'altro con noi c'è anche il vice sindaco dell'Isola del Giglio, Mario Pellegrini, che saluto. Buongiorno anche a lei, Pellegrini. Buongiorno a voi. Allora, sindaco Trapani, oggi leggiamo sui giornali che la comunità di Meta, io dico forse anche abbastanza comprensibilmente, umanamente, si sta stringendo attorno al comandante Schettino. Però lei, come sa, l'Italia ha emesso la sua sentenza anche leggendo, ascoltando gli audio, vedendo un po' quelle che sono le testimonianze che sono emerse nei confronti del comandante Schettino. Lei l'ha incontrato intanto? No, io non l'ho incontrato. L'unica cosa, secondo me, importante da dire è che comunque siamo sempre ancora in attesa di tutto quello che diciamo gli inquirenti potranno individuare, quindi tutte le di chi sono le responsabilità oltre del comandante Schettino. Cioè, quell'ora, cioè dall'incidente a poi all'affondamento della nave, c'è tutto un arco di tempo in cui effettivamente non è chiaro come sia successo. Ma questo si vedrà. Ma il comandante Schettino era ed è un orgoglio di Meta di Sorrento? La marineria a Meta è una tradizione, ci sono molti comandanti, quindi è anche chiaro che c'è, chiaramente tutti vogliono capire bene come sia andata veramente la cosa prima di emettere delle sentenze che secondo me sono state messe in questo momento solo un po' dai giornali, un po' dalla televisione. Sa che è una sua importante secondo me anche il fatto che anche la magistratura c'è una posizione in qualche modo contrastante, quindi anche loro credo che non abbiano ancora tutti gli elementi per poter poi valutare. Beh, ma ci sarà un processo. Senta, un assessore, un suo assessore, l'assessore Giuseppe Tito, lo ha definito un eroe, cioè anche dopo aver ascoltato le telefonate, lei condivide, secondo lei è un eroe il comandante? Ma, secondo me, cioè, questa è una fase ancora preliminare. Se non sappiamo bene tutti i fatti, in effetti non possiamo poi definire come è andato tutta la vicenda, cioè se non conosciamo bene tutta la dinamica. Perché beh, il suo assessore, l'ha fatto, cioè il suo assessore Tito ha detto, anche dopo aver ascoltato, lui fa una valutazione anche sul fatto che in effetti molti incidenti di questo tipo, cioè un affondamento per esempio a mare, diciamo al largo, forse sì, probabilmente i morti sarebbero stati molto di più. Questo. Quindi ha fatto poi come poi si è andato tutta la vicenda, in effetti secondo me ancora non è chiaro, ecco, questo credo io. Sì, no, ma che non sia chiaro, però voglio dire, l'audio l'ha ascoltato anche lei, cioè che ha fatto il giro del mondo, no? Questo comando imperioso della capitaneria del porto, lei va da bordo. È chiaro che in effetti poi la capitaneria, anche la capitaneria di porto comunque veniva da lontano, non era sul posto, ecco, quindi è chiaro, bisognerebbe poi essere in quei momenti e vedere cosa è successo veramente. Ma tra poco ce lo dirà Pellegrini, che era lì. Senta, è vero che lei ha ricevuto una lettera? È stata una lettera anonima. Ce la racconta? Ma era un foglietto in cui si dice, come al solito, si fanno pilotare queste navi dai terroni. Questo mi sembra un modo molto, diciamo, come si può dire, banale, ecco, anche sì, un po' offensivo nei confronti un po' di tutti i cittadini, anche sì, ma anche stupido, cioè se uno la volesse mettere, a parte se uno la volesse mettere su questo piano, voglio dire, il comandante De Falco, colui che imperiosamente dava gli ordini, è campano anche lui, ma voglio dire, ma chi se ne frega, cioè sono stupidaggini. Ma non mi sembra questo il modo di affrontare questa La comunità di Meta come si sente? Ferita? È davvero molto sono il dolore sia per la morte, insomma, di queste persone, e anche chiaramente per il dramma anche del comandante, anche perché poi effettivamente, cioè, era un comandante che comunque ha una lunga esperienza di navigazione, quindi non è che era uno sprovveduto, anche perché poi la costa crociere tutti sì, i comandanti non mette certo uno sprovveduto, no? Chiaro. L'unica cosa che secondo me va un po' questo cosiddetto inchino, cioè questo avvicinarsi delle navi sì, alla costa, che è una cosa che è sempre stata fatta e tutti lo sanno, quindi alla fine non è un qualcosa che adesso si sta scoprendo adesso. A me è interessante questo punto, tra poco ci torniamo. Io vorrei salutare allora ancora il vice sindaco dell'Isola del Giglio, che era lì, più volte è stata raccontata a Pellegrini la sua storia, cioè lei quando c'è stato il naufragio ha preso proprio la barca ed è salito a bordo di questa nave. Allora, lei che a bordo, so che ha raccontato, ha fatto fatica a trovare un ufficiale prima, no? Sì, il mio intento di salire a bordo era il tento di andare a ostacolare le operazioni di salvataggio, ma quella di avere un collegamento con gli ufficiali per poter far scendere dalla nave tutta questa gente. Il nostro porto è piccolissimo, si immagini lei, insomma, ecco. Lei che non dovendo dare un giudizio, perché ci sarà la magistratura, ma la lettura che dà sul comportamento del comandante Schettino qual è? Ma, dare un giudizio è sempre difficile. Nella nottata che ho passato a bordo cercando di aiutare gli altri, ho visto anche scene di panico, insomma, scene anche poco gradevoli, e ripensandoci a mente fredda non mi sento neanche di condannare queste persone, perché quando si prende la paura, insomma, è sempre difficile poi reagire. La cosa inquietante è certo quando il comandante De Falco intimava di risalire, lui non è risalito e io da quella scaletta sono salito a bordo. Ecco, lei è salito sulla stessa bischiaggina, come viene definita, come sì, quella su quella lì. Sì. Quando il comandante diceva a prua, io ho detto ecco, su quella sono montato io. Cioè lei risalì, quindi l'operazione che ha fatto lei, dice il comandante, poteva farla. Insomma, sì. Ecco, questo io l'ho fatto prima delle 11. Però quando sono montato a bordo io non l'ho mai visto il comandante o altri ufficiali, solo un ufficiale con cui l'unico ufficiale con cui ho collaborato quando l'inclinazione della nave era abbastanza grande, era Poppa, un ragazzo veramente bravo, veramente, che quando è suonato l'allarme si vedeva andare al suo posto. Ecco. Certo, ha fatto il suo dovere, le dice. Fermiamoci un attimo per le informazioni sul traffico, interessante però questo punto di vista del vice sindaco del Giglio, Mario Pellegrini, e poi ripartiamo tra poco. Allora 800 24 00 24, se c'è qualche ascoltatore, sentiamo Carmelo da Cosenza, buongiorno. Oh, buongiorno, buongiorno. Dica Carmelo. Io volevo spendere qualche parola per il comandante, che ovviamente non conosco, Cosenza non è, quindi non faccio parte, diciamo, della comunità di Meta, però mi sembra veramente che gli abbiano dato un po' troppo addosso. Il comandante De Falco ne esce bene, ma mi sembrava una ricostruzione. Questo secondo me sembra aver fatto quasi le prove della voce addirittura. Beh, no, adesso lo massacrano, insomma. Beh, no, adesso le prove della voce. Quella pescaggina la manda, la percorre. In Carmelo, lei forse un ordine assurdo. Lei non è un uomo di mare e non lo sono neanch'io. Però no. Vice sindaco Pellegrini, ci può aiutare a dire, cioè, gli ordini impartiti e quando si impartiscono gli ordini in mare, non è che gli si dice mi scusi, prego, ti puoi spostare perché insomma arriva il vento di maestra, no, si danno gli ordini perentori, no Pellegrini, funziona così, non è che in mare si può, soprattutto in quella situazione c'era un naufragio, non è che si può dire scusi però forse. No, il concetto è che si poteva risalire, insomma ci sono stati anche dei momenti dove la barca era abbastanza inclinata, risalire non era così difficile, anche se non facilissimo. Ma si contestava, diciamo, l'idea che da questo audio, che io devo dire sicuramente questo audio ha cambiato tutte le prospettive. Su sì. Questo Pellegrini è d'accordo, cioè la pubblicazione di questo audio, che è stato uno scoop del Corriere della Sera, del Corriere.it, ha cambiato tutto, perché fino a prima c'erano voci, ma dopo quest'audio basta, cioè è stata bollata una sentenza di condanna definitiva con le t-shirt, con tutto, con questo slogan, vada a bordo cazzo, eccetera, e basta, non sembra che la sentenza è già di condanna, terzo grado di giudizio, il comandante Schettino è il male assoluto, ecco Pellegrini. No, ora io del male, insomma. No, nel senso, questo nell'opinione pubblica, è così. Abbiamo dei testimoni oculari, questo glielo posso dire, confermare, abbiamo dei testimoni oculari dove dice che la barca non ha fatto quel tragitto per mettersi in quella posizione come vorrebbero far pensare. Sembra più che ci sia andata per caso. Quindi neanche la manovra è stata una manovra forse voluta, anche questa effettivamente. Insomma, questa andrebbe vista un pochettino. Quella manovra per cui il comandante dice ho salvato molte vite umane. Le scatole nere che verranno per benino comandata. Mi lasci, però da testimoni che avevamo in quel momento non ha fatto quel percorso che a volte indicano i giornali, ma ne ha fatto un altro. A proposito di testimoni, ci ha chiamato, mi dicono dalla redazione, Alessandro dalla provincia di Latina, che mi dicono dalla redazione aveva dei parenti a bordo. Alessandro, sì. Buongiorno. Pronto? Sì. Pronto? Sì, pronto Alessandro. Sì, buongiorno Milan. Eccoci, dica. Buongiorno. Niente, io sentendo queste persone che continuano comunque a difendere questa persona lo trovo una cosa scandalosa, oltretutto già lui ha avuto la fortuna di tornare a casa e la trovo una cosa sbagliata. Io avevo mia madre, mia sorella e mia nipote a bordo di 17 anni che praticamente hanno visto la morte in faccia, quindi praticamente non sono stati assistiti da nessuno, loro sono stati anche ieri contattati dalle televisioni, sono stati l'altra sera da Bruno Vespa e hanno dato la loro testimonianza e posso garantirvi che loro sono stati lasciati, tutti quanti sono stati lasciati all'abbandono, quindi quello che dicono in televisione è tutto vero, non c'è niente di fasullo, cioè come si fa a difendere una persona che ha lasciato in balia 4.239 persone da sole, senza aiuto, e c'erano gli inservienti delle cucine che aiutavano, qualche cameriere a tirare giù le scialuppe. Come si fa a difendere una persona così? Il comandante De Falco lo sapeva lui il problema che aveva, perché quando io ho chiamato alle 11:15 la capitaneria di porto di Livorno, purtroppo al telefono non potevamo tenere neanche le linee occupate, perché loro si stavano uccidendo per cercare di andare a salvare le persone. Sa cosa, Alessandro, rimanga con noi. La difesa del sindaco, che è con noi, con il sindaco di Meta, non è tanto sul fatto in sé. Cioè, il sindaco, lei mi può confermare che secondo lei, lo dovrà accertare la magistratura, ma secondo lei, qualche idea, un qualche grave errore l'avrà fatto questo comandante Schettino? Questo lo possiamo dire, sindaco Trapani? Io credo che il fatto di questa abitudine di l'inchino, andare molto l'inchino sotto costa è chiaramente, come devo dire, è un rischio, ma questo lo sanno anche le compagnie, la capitaneria. Però vede, il vice sindaco dell'isola del Giglio ci dice qualcosa in più, ci dice lui è salito dalla stessa biscaggina che il comandante De Falco indicava al comandante Schettino e che invece il Schettino non ha percorso. Chiaramente, essendo lui sul posto, può fare una valutazione più precisa, perciò noi tutto quello che poi possiamo dire è sempre quello che poi è stato detto in televisione e sui giornali, non è che siamo stati là e quindi uno può fare una valutazione. Io l'unica cosa che non è il fatto proprio che la magistratura, c'è stato anche un contrasto in qualche modo, cioè il pubblico ministero sono su posizioni non proprio univoche, quindi significa che ancora non è chiaro il tutto. Però non sono su posizioni univoche sul fatto degli arresti domiciliari oppure il carcere, anche il GIP è stato abbastanza impietoso nel dire nell'atto degli arresti domiciliari, dicendo ha abbandonato le persone. Questo è scritto. Ma è chiaro che poi il comandante di una nave irresponsabile, che c'è La domanda che voglio farle è questa, sindaco. Voi siete appunto una comunità molto legata, ci sono molti comandanti che vivono lì, quindi molto legati anche al mare, al codice non solo della navigazione ma etico del mare, però d'altra parte difendete umanamente il vostro concittadino. È più forte il fatto di sentire l'imbarazzo perché questo comandante non era a bordo, capisce? Cioè, per un uomo di mare è un'onta incredibile per un comandante abbandonare la nave. E diciamo anche questo naufragio è stato un po' anomalo, non è un naufragio in alto mare, quindi comunque la nave ormai era insabbiata. Ma doveva essere l'ultimo, lei lo sa meglio di me, da uomo di mare, che è l'ultimo a scendere il comandante. Sì, questo sicuramente. Ma anche poi bisogna anche vedere se in effetti, essendo pure questo numero enorme di persone, quindi da quello che ho capito credo che c'erano ancora poche persone, probabilmente non si sapeva neanche bene in quel momento quante persone fossero a bordo. Qualcun altro ha detto guarda ci sono altre persone, quindi il comandante fa il diritto di risalire perché ci sono altre persone, può darsi anche nel momento che lui era sceso, io capisco la sua posizione anche difficile. Alessandro, vorrei tornare da lei per un attimo, dalla provincia di Latina, ha capito? Cioè la difesa del sindaco non è tanto difendo il massacro mediatico che c'è stato. Ma purtroppo è totalmente indifendibile perché alle 11:30 lui già era sceso, quindi io so solo una cosa, che ho mia nipote e mia madre e mia sorella che sicuramente dovranno andare in cura perché sono rimaste sconvolte, hanno talmente tanti problemi, ogni tanto bisogna far aiutare anche con qualche calmante, con qualche cosa. E certo, perché questa poi è la tragedia peggiore, cioè le vittime, le persone che sono disperse, che sono ancora lì. Io intanto vi ringrazio, saluto e ringrazio il sindaco di Meta di Sorrento, Paolo Trapani, così come il vice sindaco dell'isola del Giglio, Mario Pellegrini, che sono stati con noi. Allora seguiteci sulla nostra pagina Facebook 24 Mattino e ci troviamo domani alle 7:20. 11.500 euro netti in tasca per un parlamentare non credo che sia una cifra esorbitante. Tutti i parlamentari stanno 3 giorni a Roma, io sono al di sopra della media delle presenze.